Ad alta voce. Anna Bonaiuto legge La Vergine nel Giardino di Antonia Bayat. Traduzione di Anna Nadotti e Giovanna Iorio Bates. Nella sua torre, Alexander era seduto alla scrivania, sulla quale aveva aperto il Times Educational Supplement, insieme a un fascio di moduli di presentazione che si era procurato. Poteva inserire i dettagli dei propri titoli professionali e aspettative per la BBC di Londra o di Manchester, per un college antico e prestigioso o una moderna scuola professionale con un buon corso di arte drammatica, senza uno specifico impegno, limitandosi a immaginare o desiderare un impiego del genere. Sapeva infatti che sarebbe stato sciocco prendere una decisione sul proprio futuro prima che il dramma venisse aperto e chiuso, come diceva Crow. Tale consapevolezza contribuiva a dare ai moduli un'apparenza neutrale e cartacea. Wedderburn, scrisse Alexander Michael. Quella sfilza di nomi gli era sempre parsa troppo altisonante e bellicosa per una persona passiva come lui. Un'anomalia su cui si soffermò ancora una volta mentre inseriva nelle caselle la data di nascita, scuole e università frequentate, generalità dei genitori, nazionalità e pubblicazioni. Conducendo una ritirata con la sola arma a sua disposizione, la penna, e sperando fosse un ripiegamento strategico e non una rotta. Forse bastava una finta mossa. Non era necessario spedire i moduli. Per il momento era sufficiente assicurarsi la possibilità. Rifletté sul suo insolito atteggiamento erotico, il suo disagio. Era convinto che i suoi gusti non fossero molto diversi da quelli della maggior parte degli uomini, anche se non tutti sono disposti ad ammetterlo. Gli piaceva il godimento immaginario. Gli piaceva il contatto immaginario con donne reali e il contatto reale con donne immaginarie. Gli piaceva la sua deliziosa solitudine e non intendeva permettere a nessuno di violarla. Ma gli piaceva anche, cosa più insolita, anche se non troppo insolita, la paura. Non la paura eccessiva. Non aveva fantasie di carne lanciata e uomini roteanti e non riusciva, neppure esasperando le proprie abituali fantasie, a immaginare cosa comporti desiderare quel tipo di cose. Ma il fremito d'apprensione, l'accapponarsi della pelle, la sensazione di fuggire in preda al panico nel sottobosco sotto la sferza del fogliame, olfatto e vista eccitati da un brivido di autentica paura, di tutto questo andava ripetutamente in cerca. Gli piacevano le donne che nell'ira diventano minacciose e crudeli. Erano loro a suscitare con più immediatezza il suo desiderio. Fin qui tutto bene. Si era innamorato di Jennifer perché lo aveva redarguito, mandandolo letteralmente al tappeto nella buca dell'orchestra durante una prova della Signora non è da bruciare. Aveva provato il piacere consueto nel placare quella rabbia e trasformare l'energia in desiderio. Aveva ancora paura di lei, era vero, ma era una paura diversa. Se n'era reso conto quando la propria carne si era ritratta davanti alle richieste di Jennifer e lei era stata così comprensiva e dolce. Ora di lei temeva l'amore, non la rabbia. Temeva Thomas e la reclusione in una casa, non qualche aspetto selvaggio e indomabile della femminilità. Frederica Potter era avvenuto un processo più o meno antitetico. Aveva trovato umiliante, imbarazzante l'attaccamento di Frederica, ne aveva temuto le implicazioni domestiche, aveva visto in lei una bambina pestifera, peraltro infarcita delle convenzioni suburbane di Bill. Non sapeva esattamente quando tutto ciò fosse cambiato. In parte era cambiato con la sua interpretazione di Elisabetta, che da un lato rappresentava il suo desiderio di avere paura delle donne minacciose, ma dall'altro, essendo un autoritratto, condivideva quella paura, e non solo, anche il segreto compiacimento per la solitudine, che era nello stesso tempo fuga, energia e potere. Sapeva essere di pietra, quella ragazza. Sapeva mostrare paura, rabbia e grazia. Alexander aveva paura di ciò che sapeva. Aveva paura di lei. Non aveva intenzione di lasciarsi ulteriormente invischiare negli affari di Bill Potter o della sua famiglia, e neanche, triste a dirsi, in quelli di Goffrey e Thomas Perry e nelle crepe della loro vita domestica. Appena finite le rappresentazioni, avrebbe messo tutte le sue cose, pietre, arlecchini, libri, nel baule dell'auto e sarebbe andato a Weymouth e poi più a sud. A Jennifer avrebbe lasciato una grande pianta in vaso, si mise a pensarci, un lauro in una cassetta di legno, una rosa bianca. Quanto alla pestifera fanciulla, lui si sarebbe sottratto e lei avrebbe continuato a turbare i suoi sogni, il che peraltro era un vantaggio. Lei avrebbe dimenticato, molto in fretta, grazie alle sue inesauribili e implacabili energie. Avrebbe strappato i capelli a qualcun altro. Per causa sua avrebbe perso i contatti con Bill, ma avrebbe mantenuto quelli con Crow. Magari sarebbe venuto a trovarlo, dopo un appropriato intervallo di tempo, prima che Long Royston venisse consegnata alle autorità accademiche. Finì di riempire il modulo del Dipartimento Sceneggiature della BBC e passò a quello dei programmi educativi. Scrivere lo calmò. Udì qualcuno che saliva le scale di corsa. La porta si spalancò senza preavviso. Immaginò l'apparizione di Frederica in tenuta da caccia ed ebbe l'idea assurda di un uomo relegato in cima a una torre, come se evadere da una stanza situata altrove fosse più semplice. Sorrise tra sé in un modo che sembrò irritare il suo visitatore e che in realtà era Jennifer. «Dovevo vederti», disse Jennifer. «Ci sei solo tu». «Era il caso di venire qui?» replicò debolmente Alexander. Era sempre riuscito a tenere le donne fuori dalla sua stanza. Per quella ragione, lui e la sua reputazione, se non altro di uomo discreto, si erano mantenuti così a lungo. Jennifer andò a sedersi sul bracciolo della sua poltrona. Alexander le circondò svogliatamente i fianchi con un braccio. Con un gesto che lui avrebbe trovato insopportabile in chiunque, Jennifer sbirciò tra le sue carte ed estrasse un modulo dal mucchio. «Alexander Miles Michael. Ma che carini tutti questi nomi!» «Nomi. Alexander Miles Michael. Ma che carini tutti questi nomi! Che cosa stai facendo? Cosa stai facendo, Alexander? Non vorrei cambiare lavoro?» «Ci stavo solo pensando.» «Pensavi di lasciarmi?» «No, no. Non ne avevo intenzione. Ti amo, Jennifer. Però potresti andartene e portarci con te. Cambierebbe tutto, sarebbe tutto più onesto, chiaro. Avremo delle prospettive. E Thomas? Ti vuole bene. È piccolo, verrebbe. Jennifer, se fossi Thomas, io... Voglio dire che lui ha la sua vita. Potrei rinunciare a Thomas. Non che voglia farlo. Ma cosa ci resta a lui e a me, stando così le cose? Come? Sarebbe andato tutto benissimo se non ci fosse stato Thomas. Sono venuta perché lo so. Se proviamo adesso andrà tutto bene. Lo dobbiamo a noi stessi. Jennifer, questo è un college maschile, la mia stanza, così in pieno giorno. Non puoi fare il difficile su tutto. O mi sbaglio? La gonna scivolò sul pavimento. Sollevò una gamba e si slacciò la giarrettiera. Era nuda accanto alla sua scrivania, nuda nel suo stretto letto da scapolo. Alexander si svestì, educatamente, senza premura, e si stese al suo fianco. Non ci fu niente da fare. Se ne fosse stato capace, l'avrebbe fatto, rifletté torvo tra sé, per non prolungare l'imbarazzo, per farla finita. Ma non ci riuscì. Girò la faccia contro il muro. Jennifer, rossa fino alla punta dei seni, scoppiò improvvisamente in pianto di lutto. Il suo dolore e la sua umiliazione sgomentarono Alexander. La prese tra le braccia e la cullò, sussurrando: «Non angustiarti, non angustiarti». E malgrado la situazione, non poté fare a meno di chiedersi da dove gli fosse venuta una simile espressione. Un'espressione arcaica che non gli apparteneva e che poco dopo individuò con cupa soddisfazione nell'amante di Lady Chatterley. Jennifer singhiozzava sempre di più e sempre più forte. Alexander capì che per lei era l'unico comportamento possibile, non sapendo cosa dire o come accostarsi a lui. Non angustiarti, amore. È il momento che è sbagliato. Siamo entrambi agitati. E poi questo posto mi innervosisce. Non significa niente, andrà tutto bene quando... Lei disse, sei così bianco, così bello. Hai un'aria così intatta, pura. Mi piace guardarti. Beh, questo puoi farlo, disse lui. E qualcosa nel suo tono suscitò allarme o imbarazzo in lei, che si alzò di scatto e si vestì frettolosamente. Alexander fece altrettanto prima che cambiasse idea e l'accompagnò alla porta prima che si offrisse di restare. Tornò nei suoi moduli, sentendosi accaldato e un po' appiccicoso, e ne riempì un altro. Impiegò circa 10 minuti, poi udì di nuovo un rapido scalpiccio per le scale e di nuovo si spalancò la porta. Pensò che fosse Jennifer che aveva dimenticato qualcosa o tornava per un ulteriore rimprovero. Invece era Frederica. «Dovevo vederti», disse Frederica. «Ci sei solo tu». Il cuore di Alexander accelerò. «Non posso dire lo stesso», disse. «Purtroppo». «Già, lo so», rispose lei. «Mi sono appostata, tra i pomodori. Per fortuna avevo un libro». «Cosa stai leggendo?» «Sto rileggendo Donne innamorate. Tutto a un tratto ho avuto paura di essere la protagonista». «Potresti sempre cambiare autore». «È vero, verissimo». Amo Lorenz e lo odio. Credo in quello che dice e allo stesso tempo lo rifiuto completamente. È logorante. Forse era per il titolo. Voglio dire che desideravo leggere un libro intitolato così. Cosa posso leggere? Dammi tu qualcosa, qualcosa di diverso. Che cosa preferisci? Più di tutti al momento mi piace Racine. Alexander pensò a Racine, a Donne innamorate e a Frederica Potter e riuscì a individuare un'unica connessione. «Venisse tout entière à sa peau attachée». «No, non quello! L'orribile equilibrio dell'ineluttabile! Lascia che ti esponga le mie intelligenti riflessioni sull'Alessandrino. E non potrò parlarne mai con nessuno, così finirò per dimenticarmele. È terribile!» «Fa pure», disse lui. «Parlami dell'Alessandrino». «Era un bravo insegnante, non perché comunicasse con carisma come Bill, passione e senso di importanza, ma perché sapeva ascoltare, sapeva porre la domanda successiva e seguire il filo dei pensieri. Creò uno spazio temporale in cui Frederica poté parlargli dell'Alessandrino. Rimase seduto mentre il calore delle membra arrossate di Jennifer svaniva dalle sue braccia e dal ventre e guardò quella ragazza, che lo aveva sempre aggredito e incalzato, esitare tra iperbole lorenziana e paccottiglia sentimentale. E lei gli parlò con chiarezza e semplicità, con citazioni sempre più pacate e puntuali. Sedeva composta su una sedia rigida e Alexander pensò che aveva orecchio, un ottimo orecchio, e poi ricordò che era un'attrice con i muscoli legati e sorrise tra sé. E lei, come leggendogli nel pensiero, disse «Non riesco a immaginare qualcuno che l'interpreta, a meno che non rimanga immobile, sollevando solo un braccio di tanto in tanto o prendendosi la testa tra le mani. Tu che ne pensi?» «Credo che tu abbia ragione. Io ti amo». Era la conclusione naturale di una spiegazione concepita interamente come dichiarazione d'amore, come tale pronunciata e come tale ricevuta, pensò Alexander. «Io ti amo», disse lui, il più semplicemente possibile, desiderando comunicarle che le sue parole, prima caute ed esitanti, poi fluide e astratte e appassionate, lo avevano emozionato mentre un'altra donna, rosea e nuda sul suo letto, non c'era riuscita. La voce inviolabile all'ennesima potenza. No, non era quello, solo la rarità che ci venga offerto un pensiero. Gli avevano sempre detto che Frederica era molto intelligente e lui ne era convinto. Lei stessa glielo aveva detto più volte. «Ti amo perché sei molto intelligente», precisò Alexander per dimostrarle che adesso ne era consapevole. «Io ti amo perché sai scrivere. Sono delle buone ragioni?» Sì, sono delle buone ragioni. Ti presto un libro che non è Donne innamorate. Ti darò la mia copia piena di annotazioni di poeti del XIV secolo. È stampato male e con una strana ortografia, ma devi coglierne il fluire e il rifluire. Lo conserverò per sempre, disse lei, seria e ironica, scherzosa e sincera. Rimasero lì seduti a guardarsi. Scusami, Alexander, sono così ebbra di te, anche perché non ho dormito, e adesso ti vedo e finalmente ti parlo che non riesco a stare zitta. Vado a ruota libera, non riesco a immaginare che si possa essere felici per più di un giorno o due di seguito, quindi cerco di approfittarne. Vuoi fare l'amore con me? Non so se posso, non mi sembra onesto, verso molte persone, te compresa, e me, credo. Capisco, ma non ha importanza. Tra te e me, qui e ora. Una ragazza di 17 anni, ecco cos'era, pensò Alexander tra sé. Non aveva ancora una vita vera che s'allungava alle sue spalle davanti a lei, condizionandola con vecchie cause ed effetti, doveri e fallimenti scoraggianti. Era innocente, o quasi, e per tale motivo, gli diceva la ragione, vulnerabile. Ciò che faceva o non faceva con lei poteva cambiarle la vita. A vederla però non si sarebbe detto, obiettava il corpo di Alexander e il suo buon senso confermava. A vederla però non si sarebbe detto, obiettava il corpo di Alexander e il suo buon senso confermava. Frederica sembrava forte, sicura di sé e impaziente di passare all'azione. Abbracciami almeno. Non pensare che non ti voglia. No, solo scrupoli, d'accordo, c'è tanto tempo. Abbracciami solo un po', senza impegno. La prese sulle ginocchia e l'abbracciò. Restarono perfettamente immobili. L'ultimo visitatore di Alexander si premurò di bussare alla porta. Anche il suo ingresso, una volta invitato a entrare, fu più esitante. Purtroppo ho dovuto venire da lei. È il solo a cui posso rivolgermi. Se non si trovava come ora faccia a faccia con lui, Alexander pensava raramente a Marcus. Dopo averlo visto recitare Ofelia, aveva concluso che in quel ragazzo c'era qualcosa che non andava e l'aveva prontamente, quanto con leggerezza, attribuito alla sua situazione familiare e posizione sociale. Un giudizio il suo, complicato dal fatto che ogni volta che pensava a Ofelia, ricordava il viso e la voce di Marcus, e dal fatto che quando lo vedeva stralunato, pallido, emaciato e fragile, gli veniva subito in mente Ofelia. Se pensava a lui, come tentò di fare in quel momento, stabiliva che i loro rari incontri erano invariabilmente maldestri tentativi di Marcus di dirgli o fargli capire qualcosa. «Vuoi dirmi perché sei qui?» Marcus sobbalzò. «Non so da dove cominciare. Temo che le sembri irragionevole, anzi pazzesco, e credo che lo sia, probabilmente, anzi quasi certamente. Cos'è pazzesco? O chi?» «Signore, il motivo vero è che ho paura di quello che può succedere al signor Simmons. Ho paura di quello che potrebbe fare.» Alexander non aveva mai prestato particolare attenzione a Lucas Simmons, la cui normalità era insignificante, persino banale, la cui conversazione in sala insegnanti era un fluire ininterrotto di sciocchezze professionali. Alexander ripensò a quella faccia sorridente, quell'aria da giocatore di cricket e da fanatico dell'aria aperta, un personaggio secondario uscito dalla penna di una scrittrice di gialli, d'aspetto rispettabile e di salde opinioni, non abbastanza appariscente per Udaus. Dice che esseri alieni gli hanno distrutto il cervello su un cacciatorpediniere. Anche una parte del suo apparato biomorfico, a quanto pare. Ha visto una bottiglia per il latte piena di sangue. Ha ritagliato dei buchi nelle tavole anatomiche dell'uomo e della donna, in laboratorio. Credo che abbia sezionato qualche rana. È il suo lavoro. C'è modo e modo. E tu come interpreti tutto questo? Non lo so, signore. È convinto che io sappia cose che non so. Non sono perspicace come crede lui. E com'è che si aspetta tanto da te? È mio amico. Era una risposta sincera, disperata e generosa. Marcus non era bravo con le parole. Il suo tono, anzi, avrebbe potuto essere interpretato, e sciaguratamente lo fu, come querulo. «Così adesso senti che il vostro rapporto è troppo pericoloso?» «Beh, no. Cioè sì, lo è. Ma non è per questo che sono venuto. Ho paura di quello che potrebbe fare.» «Non ho ancora capito bene quello che ha fatto», disse Alexander, delicato e vagamente ostile. «Cercherà di spiegarti meglio.» Alexander di solito era un buon confidente, un po' perché, a causa della sua reticente pigrizia, evitava di trattare le confidenze altrui come proprietà privata. In quel caso, però, non seppe ascoltare. Non aveva chiuso occhio e risentiva delle traversie sessuali con Jennifer e Frederica. Udì i balbettii di Marcus e cercò di attribuire loro un senso. «Cosa potrebbe fare Lucas?» Marcus cercò le parole giuste. Aveva completamente fallito nel tentativo di far immaginare Lucas ad Alexander. Lentamente disse: «Dice che dobbiamo andare al campo dei mille tumuli, nella brughiera. Sono sicuro che se ci andiamo, ci ammazziamo.» «Lo so.» Cinque o sei grosse lacrime gli rigarono il volto privo di espressione. «Non credo che ci andrete», disse Alexander con un calore insolito per lui. «E in ogni caso una soluzione c'è, quella di non andarci. Devi semplicemente dirgli che è tutto finito, che consideri l'intera faccenda potenzialmente pericolosa e distruttiva, il che è vero.» «Ma lui che cosa farà?» «Bisogna che qualcuno gli parli. Cercherò di farlo io.» «È per questo che sei venuto?» «Devi andare a casa adesso e dire qualcosa a tuo padre, il minimo indispensabile. Fatti mandare in vacanza. Vai a stare da qualche zia.» «No, no, zie. Parlare a mio padre non è una buona idea. Io voglio solo che lei lo tenga d'occhio.» «Lo farò.» «Davvero?» «Davvero.» Anna Bonaiuto ha letto La Vergine nel Giardino di Antonia Bayat. A cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli, con Chiara Valerio e Lorenzo Pavolini, ad alta voce @rai.it.